Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir. Traduzione di Franco Lucentini. Vivere un amore rifiutandolo. Che strana impresa. Le lettere di Lewis mi spezzavano il cuore. Continuerò sempre così, ad amarvi ogni giorno di più, mi scriveva. E un'altra volta, ma avete giocato uno strano tiro. Non posso più portarmi a casa donne d'una notte. Quelle a cui avrei potuto offrire un pezzetto del mio cuore, non ho più niente da dargli. Che voglia avevo quando leggevo queste parole di gettarmi nelle sue braccia. M'era vietato e avrei dovuto dirgli dimenticatemi, ma non volevo dirglielo. Volevo che m'amasse. Volevo tutto il male che gli facevo e subivo la sua tristezza tra i rimorsi. Ero contenta di lasciare Saint-Martin, di ritrovare a Parigi i miei pazienti, gli amici, il rumore, le occupazioni che m'avrebbero impedito di pensare a me stessa. Tornando a casa un pomeriggio trovai Robert bianco di collera. Era la prima volta in vita mia che lo vedevo fuori di sé. S'era guastato definitivamente con Henri. Mi raccontò la scena in poche frasi concitate e mi disse con voce tagliente: «Non cercare di scusarlo, non è scusabile». Sul momento non tentai niente, ero senza voce. 15 anni d'amicizia cancellati in un'ora. Henri non si sarebbe seduto più in quella poltrona, non avremmo più udito la sua voce allegra. Che solitudine per Robert e che vuoto nella vita di Henri. Per tutta la sera Robert ruminò con aria cattiva la lettera che avrebbe sottoposto al comitato e io sentii al cuore una gran stretta la mattina in cui, aprendo l'Espoir, vidi stampate le due lettere in cui Robert e Henri si scambiavano rimproveri e accuse insultanti. Anche Nadine rimase costernata. Aveva ancora molta amicizia per Henri e quegli insulti pubblici a suo padre la ferirono doppiamente. «È stato Lambert a istigarlo», mi disse rabbiosa. Avrei voluto comprendere davvero quel che era avvenuto nella mente di Henri. Io stessa, col pretesto che in certe piccole cose Robert è un po' invecchiato, sono giunta qualche volta a dubitare di lui. Oggi, per esempio, mi rendo conto che fu per ragioni assai solide che decise di passare sotto silenzio l'affare dei campi, ma allora avevo creduto che fosse per debolezza. Così capisco Henri. Anche lui ha ammirato Robert, ciecamente. L'ha sempre seguito in tutto, pur conoscendo il suo imperialismo, anche quando questo lo obbligava a vivere controvoglia. La faccenda di Trarieux era stata grave appunto per questo. Visto che Robert aveva potuto deluderlo una volta, Henri credeva ormai che fosse diventato capace di tutto. Inutile comunque starsi a scervellare su quel che era accaduto, visto che non si poteva tornare indietro. Quel che si trattava di sapere per il momento era come sarebbe andato a finire l'SRL. Diviso, disorganizzato, senza più un giornale, il movimento era condannato a sgretolarsi completamente. La Forie, per tramite di Lenoir, propose una fusione con certi gruppi paracomunisti. Robert rispose che voleva aspettare le elezioni prima di prendere una decisione qualsiasi. Ma io sapevo che non avrebbe accettato. Era vero che la scoperta dei campi non l'aveva lasciato indifferente e non aveva la minima voglia d'accostarsi di più ai comunisti. I membri dell'SRL erano liberi di iscriversi al Partito Comunista, ma il movimento come tale doveva restare indipendente o cessare puramente e semplicemente di esistere. Lenoir fu il primo a iscriversi. Si rallegrava anzi che il crollo dell'SRL gli avesse aperto gli occhi. Molti altri lo seguirono. Incredibile poi la quantità di gente a cui si aprirono gli occhi in novembre, dopo i successi comunisti. Tutte quelle conversioni intorno a lui li irritavano. E malgrado il suo rancore contro Henri, quando Lenoir tornò alla carica, l'ascoltò con impazienza. «La nostra vittoria elettorale», disse Lenoir con voce entusiastica, «è stata la più bella risposta che si potesse dare a quell'immonda campagna. Perron e la sua cricca non sono riusciti a toglierci un solo voto». Guardò Robert con aria invitante. L'SRL ormai vi seguirebbe come un solo uomo se gli proponeste quella fusione di cui parlammo. L'SRL è morto, disse Robert, e io non m'occupo più di politica. Per me la politica è finita, rientro nel mio buco. Sapevo bene che l'SRL non esisteva più e che Robert non aveva altri progetti in vista, ma ebbi lo stesso un piccolo colpo sentendolo dichiarare che sarebbe rientrato definitivamente nel suo buco. Appena Lenoir se ne fu andato, gli chiesi: «Volete davvero abbandonare la politica?» Robert sorrise. «Ho l'impressione che sia la politica ad abbandonare me. Cosa posso farci?» Non fu un inverno allegro. Le lettere che ricevevo da Lewis erano gaie, ma non mi confortavano. A Chicago nevicava, la gente andava a pattinare sul lago. Lewis passava giorni interi nella sua camera a raccontarsi delle storie. Si raccontava che in maggio avremmo sceso il Mississippi in battello, che avremmo dormito insieme in una cabina, cullati dal rumore dell'acqua. Aveva l'aria di crederci. Certo, da Chicago il Mississippi non pareva così lontano, ma io sapevo che per me questi giorni freddi e grigi, che ricominciavano a ogni risveglio, sarebbero ricominciati senza fine. Non ci ritroveremo mai, pensavo. Non ci sarà nessuna primavera. Fu in una di quelle sere senza avvenire che Paul mi venne a trovare. La fece entrare nella mia camera. Uno scialle scuro le nascondeva i capelli. La cipria di cui s'era aspersa non riusciva a velare il suo naso gonfio. Il suo alito aveva un odore pesante di menta e di vino cattivo. Paul aveva avuto una bellezza tale che non avevo mai pensato potesse perderla completamente. C'era qualcosa nel suo viso che pareva dovesse resistere a tutto. Ma ecco, d'un tratto si vedeva. Era fatto come tutti gli altri, d'una carne spugnosa, più dell'80% d'acqua. Si strappò lo scialle e s'abbandonò sul divano. «Guarda cosa ho ricevuto». Era una lettera di Henri, poche righe d'una calligrafia precisa su un foglietto bianco. «Paul, noi due non ci facciamo che del male. È meglio che smettiamo completamente di vederci. Cerca di non pensare più a me. M'auguro che un giorno potremo diventare amici. Henri». «Ci capisci qualcosa?» disse. «Non ha osato parlarti», dissi. «Ha preferito mandarti una lettera di rottura». Di rottura? Tu ne hai già viste di lettere di rottura scritte così? Non mi pare che abbia niente di straordinario. Alzò le spalle. Ma via, e prima di tutto cosa c'è da rompere tra noi, visto che lui accetta l'idea dell'amicizia e che io non desidero nient'altro? Sei sicura di non avergli detto che lo ami? L'amo fuori di questo mondo. Che ostacolo è questo alla nostra amicizia? E del resto lui l'esige questo amore. Aggiunse con una voce violenta che mi ricordò d'un tratto quella di Nadine. «Questa lettera è di un'ipocrisia rivoltante. Guarda, rileggila. Dice, cerca di non pensare più a me. Perché non dice semplicemente non pensare più a me? Si tradisce. Vuole che io mi tormenti a cercare, ma non che ci riesca». «Ma perché?» dissi. «È quel che vengo a chiederti», disse guardandomi con aria d'accusa. Torse gli occhi. «Noi non ci facciamo che del male. È il colmo pretendere che sia io a tormentarlo». Si passò le mani sul viso con aria estenuata. Mi pareva d'averlo quasi riconquistato. Era tornato fiducioso, amichevole. Più d'una volta ho sentito che era pronto a dirmi che la prova era finita. E poi, l'altro giorno, devo aver fatto una mossa falsa. Cosa c'è stato? I giornali avevano annunciato il suo fidanzamento con Josette. Naturalmente non ci ho creduto un istante. Come avrebbe potuto pensare di sposare Josette se la sua donna sono io? Questo faceva parte della prova, l'ho capito subito. E del resto è venuto lui stesso a confessarmi che era una menzogna. Ho cercato di spiegargli che avrebbe anche potuto finirla con quella commedia, che niente di quel che gli succede in questo mondo può ormai toccarmi, che l'amo con rinunzia totale. Non so se sono stata io a non farmi capire o se è lui che è pazzo. A ogni parola che dicevo lui ne capiva un'altra. È stata una cosa orribile. Ci fu un lungo silenzio e alla fine chiesi con prudenza: «Ma cosa pensi precisamente che voglia da te?» «Sai perfettamente quel che vuole. Vuole che io gli dia tutto senza chiedergli niente. È semplice. Quel che non so è se ha scritto questa lettera perché crede che io esiga ancora il suo amore o perché teme che gli rifiuti il mio. Nel primo caso è la commedia che continua. Nel secondo... È una vendetta, disse cupa. Di nuovo il suo sguardo si posò su di me, esitante, diffidente e tuttavia imperioso. Devi aiutarmi. Come? Parlando a Henri e cercando di convincerlo. Ma Paul, sai bene che Robert e io siamo in rotta con Henri. Lo so, disse vagamente, ma tu lo vedi lo stesso. No, di certo. Esitò. Ammettiamo. In ogni modo, puoi vederlo. Non vorrà buttarti giù dalle scale. Ammettiamo che io faccia questo passo, dissi. Quando ti riferirò quel che Henri m'avrà detto, mi crederai? Si alzò, si asciugò gli occhi, si riaggiustò lo scialle. Ti crederò se mi dirai la verità, disse avviandosi alla porta. Sapevo che sarebbe stato perfettamente inutile parlare a Henri. Quanto a Paul, ogni conversazione amichevole con lei pareva ormai impossibile. Avrei dovuto piuttosto coricarla sul mio divano e cominciare un trattamento. Per fortuna non ci è permesso curare le persone che conosciamo intimamente. Mi sarebbe parso di commettere un abuso di fiducia. Così fui vilmente sollevata dal fatto che Paul avesse isolato il proprio telefono e rispondesse alle mie due lettere con questa frase laconica. Scusami, ho bisogno di solitudine. T'avvertirò quando sarà necessario. Un giorno dopo colazione stavamo prendendo il caffè quando suonarono. Era Claudie. Scusatemi, è molto scorretto da parte mia venir così all'improvviso. Aveva una voce agitata e importante. Vengo per via di Paul. Ho l'impressione che qualcosa non vada. Cos'è accaduto? Doveva venire a colazione da me a 1:30 e non era ancora venuta. Le ho telefonato e mi ha risposto con una gran risata. Le ho detto che ci stavamo mettendo a tavola e ha gridato: «Ma sì, mettetevi a tavola, mettetevi a tavola!» E rideva come un'isterica. Una gioiosa apprensione le brillava nei grossi occhi. M'alzai. «Bisogna andare da lei?» «È quello che avevo pensato, ma non osavo andarci da sola.» «Andiamoci insieme.» 10 minuti più tardi l'automobile di Claudie ci depose al portone di Paul. Suonai. Il portone non si aprì. Suonai di nuovo, a lungo. Sentimmo un passo trascinarsi per le scale, venire per l'andito. Paul comparve avvolta in uno scialle viola. Si mise a ridere. «Siete in due soltanto!» Teneva il portone socchiuso, spiandoci con occhi cattivi. «Non ho più bisogno di voi, grazie!» Richiuse bruscamente il portone. Questa volta premetti il campanello della portiera e il portone s'aprì. La portiera era una donnetta, esile e discreta, che da molto tempo faceva le pulizie nello studio di Paul. «Salite dalla signora Mareuil?» «Sì, pare che non stia bene.» «Già, appunto, ero preoccupata», disse la portiera. «Sono almeno 5 giorni che non mangia più e gli inquilini del piano di sotto m'hanno detto che cammina in su e in giù tutta la notte. Da quando faccio le pulizie da lei, l'ho sempre sentita parlare da sola, ma m'ero abituata. In questi ultimi tempi, però, è diventata un po' strana. Cercherò di portarla a casa mia e di farla riposare. Salii la scala e Claudie mi venne dietro. Bussai, ma non rispose. «Che orrore!» disse Claudie. «Si sarà uccisa!» Mi chinai, guardai dal buco della serratura. Paul era inginocchiata davanti al camino e aveva intorno mucchi di carte che stava buttando nel fuoco. Bussai di nuovo con violenza. «Apri, o faccio sfondare la porta!» S'alzò, aprì. «Che volete da me?» Tornò al camino. Si inginocchiò di nuovo davanti alle fiamme. Aveva la faccia piena di lacrime. Il moccio le colava dal naso. Riprese a gettare nel fuoco i fasci di lettere. Quando le misi una mano sulla spalla, si scosse con orrore. «Lasciami!» «Paul, devi prendere un calmante e dormire», dissi. «Non ti reggi in piedi». «Non voglio più occuparmi di me», disse con violenza. «Ci ho già pensato fin troppo a me. Non darmi consigli sbagliati». Si lasciò cadere su una sedia. Non c'era che da aspettare. Da un istante all'altro sarebbe crollata e allora l'avrei messa a letto con un sonnifero. Mi guardai intorno. Aveva ancora dell'acido prussico a portata di mano. Mi ricordavo che nel 40 m'aveva mostrato una piccola fiala brunastra, spiegandomi come si fosse procurata quel veleno ad ogni buon conto. La fiala era forse nella sua borsa, ma non osai toccare quella borsa. Tornai a guardare Paul. Aveva la mascella pendente. Tutti i suoi tratti s'erano rilasciati. Ne avevo viste di faccia in quello stato. Ma Paul non era una paziente. Era Paul. E mi faceva male vederla così. Andai a riempire un bicchiere d'acqua e vi sciolsi una compressa. «Bevi questo», dissi, «e mettiti a letto». Lo sguardo di Paul vacillò. S'abbatté nelle mie braccia. «Sono malata. Sono così malata». «Sì, ma adesso ti curerai. Guarirai», dissi. «Curatemi! Dovete curarmi!» Tremava. Le lacrime le rotolavano sulle guance. Era così bruciante, così sudata, che mi pareva che da un istante all'altro si sarebbe sciolta, distrutta interamente, e che di lei non sarebbe rimasta che una pozzanghera di pece, nera, come i suoi occhi. «Domani ti porterò in una clinica», dissi. «Intanto bevi», prese il bicchiere. «Mi farà dormire, sicuramente». Vuotò il bicchiere d'un fiato. «Adesso sali in camera tua e vai a letto». «Salgo», disse docilmente. Salii con lei e mentre era nel bagno aprii la borsa della chiusura lampo. In fondo c'era una piccola fiala brunastra che mi cacciai in tasca. La mattina dopo Paul mi seguì docilmente alla clinica e Marthus mi promise che sarebbe guarita. Era questione di qualche settimana o di qualche mese. Sarebbe guarita. Ma io, quando mi ritrovai in strada, mi chiedevo inquieta da che cosa la guariranno precisamente. Che sarà di lei dopo? In fondo era facile da prevedere. Sarebbe diventata come me, come milioni di altre. Una donna che aspetta di morire, senza più sapere perché vive. Thank you. Maggio era finalmente arrivato e mi ritrovai a Chicago. Avevamo convenuto che Lewis mi avrebbe aspettato a casa. Saltai dal tassi e scorsi nel vano illuminato d'una finestra una figura china. Spiava, mi spiava. Mi venne incontro. Era lui. Non portava colletto duro né occhiali, ma un vecchio berretto, e le sue braccia mi soffocavano. Ann! Lewis! Finalmente! Ho aspettato tanto! Com'è stato lungo! Sì, lungo! Così lungo! So che non mi prese in braccio, eppure non ricordo d'essermi servita delle mie gambe diventate di stoppa per salire la scala. Già ci stringevamo in mezzo alla cucina gialla, la stufa, il linoleum, la coperta messicana, ogni cosa era là, al proprio posto. Lewis mi coricò sul letto. Ann, vi ho aspettata tutte le notti. Chiusi gli occhi. Di nuovo un corpo d'uomo pesava su di me, pesante di tutto il suo abbandono e di tutto il suo desiderio. Era Lewis, e non era cambiato. Né io ero cambiata, né il nostro amore. Ero partita, ma ero tornata. Avevo ritrovato il mio posto e m'ero liberata di me. Passammo il giorno seguente a fare i bagagli e a fare all'amore. Viaggiare, correre il mondo per vedere con i propri occhi ciò che non esiste più, ciò che non ci riguarda, è un'attività ben losca. Eravamo d'accordo su questo punto, Lewis e io, ma quel viaggio nell'America centrale ci divertiva lo stesso enormemente, tutti e due. A Cicicastenango capitammo di giovedì, in pieno mercato. Donne in camicie ricamate e sottane multicolori vendevano granaglie, farine, pani, frutta rinsecchita, misero pollame, terraglie, sacchi, cinture, sandali e chilometri di stoffe dai colori di vetrata e di ceramica. Le cose più meravigliose tra tutte quelle meraviglie erano i vecchissimi huipil che portavano certe contadine. Mostrai a Lewis una di quelle bluse dagli antichi ricami, dove un turchino di zaffiro si fondeva teneramente con dei rossi e degli ori spenti. «Ecco cosa vorrei comprare se fosse da vendere!» Lewis esaminò la vecchia indiana dalle lunghe trecce. «Forse lo venderebbe. Non oserò mai proporglielo. E poi in che lingua?» Comprammo cinture, sandali, stoffe. La vecchia dall'huipil meraviglioso era sempre là, ma non osai accostarla. Tornammo all'albergo, ma sulla porta Lewis mi lasciò. Ho dimenticato di comprare le sigarette, torno subito. Cominciavo a impazientirmi quando finalmente rientrò con un pacchetto sotto il braccio. «Cosa avete fatto?» dissi. «Sono stato incaricato d'una missione speciale». «E l'avete assolta?» «Certo». Mi lanciò il pacchetto. Strappai la carta e un turchino di zaffero mi riempì gli occhi. Era il meraviglioso huipil. Gli gettai le braccia al collo. «Perché siete così gentile con me?» «Non sono gentile, sono molto egoista. Il fatto è che voi siete un pezzetto di me», mi strinse più forte. «Ann, restate con me». Rimasi senza respiro. «Lewis, voi sapete quanto vorrei. Vorrei tanto, ma non posso». «Perché?» «Ve l'ho spiegato l'altro anno». Le lacrime mi salirono agli occhi. «Vi amo», dissi. «Sapete quanto vi amo. Ma alla mia età non si può gettar via tutta la propria vita. È troppo tardi. Ci siamo incontrati troppo tardi». «Non per me», disse. «Credete?» dissi. «Se vi chiedessi di venire a vivere a Parigi, per sempre, verreste?» Il viso di Lewis si rabuiò. «A Parigi non potrei scrivere». «Credo anch'io di no», dissi. Alzai le spalle. «Vedete, all'estero non potreste più scrivere e la vostra vita non avrebbe più senso. Io non scrivo, ma ci sono cose che contano per me quanto i libri per voi». Lewis restò un poco in silenzio. «Eppure, m'amate», disse alla fine. «Sì», dissi. «Vi amerò fino alla morte. Ma l'amore non è tutto. Dovreste capirmi. Neppure per voi è tutto». «No, l'amore non è tutto», disse Lewis. Mi guardava con aria esitante. Dissi con passione: «Se tengo anche ad altre cose, non per questo vi amo meno. Non dovete volermene per questo. Non dovete amarmi meno per questo». Lewis mi carezzò i capelli. «Suppongo che se l'amore per voi fosse tutto, io non v'amerei tanto. Non sareste più voi». Gli occhi mi si empirono di lacrime. se m'accettava tutta intera, col mio passato, con la mia vita, con tutto quello che mi separava da lui. La nostra felicità era salva. Mi gettai nelle sue braccia. Lewis, sarebbe stato così orribile se non aveste capito. Ma voi capite? Che felicità! Perché piangete? Disse Lewis. Ho avuto paura. Se vi perdessi non potrei più vivere. Ma asciugò una lacrima sulla guancia. Non piangete. Vi amo, stupida piccola parigina. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante.